La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, amici, buon fine settimana, buon cinema, La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Una settimana con un numero di uscite non altissimo, anche se ce ne sono 5 di nuovi film che arrivano nelle sale, con una presenza interessante di cinema italiano di cui parleremo, una settimana che, diciamo così, fa da transizione all'ingresso nel mese di ottobre, che sarà un mese molto caldo per quanto concerne il cinema. Come sempre, recensioni, suoni, giochi per vincere i più bei film in DVD e Blu-ray, e quindi cominciamo subito a sentire i contenuti di questa puntata della Rosa Purpurea nei nostri titoli di testa. Nei cinema, La Pecora Nera, convincente esordio da regista cinematografico di Ascanio Celestini. Un viaggio surreale dove finisce la mente e comincia il buio. Ne parliamo con l'autore. Due anni dopo l'originale francese, Giù al Nord si trasforma nel suo remake italiano, Benvenuti al Sud. Claudio Bisio è il postino brianzolo trasferito in Campania con tanto di moglie al seguito, un'esilarante Angela Finocchiaro. La prima cosa bella di Paolo Virzì è il candidato italiano per gli Oscar 2011. Ha sconfitto una concorrenza agguerrita, su tutti L'uomo che verrà di Giorgio Diritti, Speranze e strategie per la conquista della nomination. Al via a Pordenone le giornate del cinema muto, il più importante festival del mondo sul cinema delle origini. Quest'anno all'insegna di Buster Keaton. Cominciamo con il punto. Noi siamo qui, avete presente le cartine nei centri commerciali? Cioè, si parte da una classifica che vede Inception primo con 2.600.000 euro incassati nel primo weekend di programmazione, film straordinario, a mio modo di vedere, che farà molto ma molto di più, ma partenza rapidissima anche per L'Ultimo Dominatore dell'Aria con 2.189.000 euro nel primo weekend. Poi al terzo posto Mordimi, la parodia, diciamo così, dei film sui vampiri, Twilight su tutti, e poi via via gli altri. Quarto posto all'esordio per La Passione di Carlo Mazzacurati. Dicevo, si comincia da qui, perché adesso parliamo del primo film di questo weekend che vogliamo analizzare. Il film è una commedia corale, tra l'altro con attori anche importanti. Si intitola in originale Grown Up, come si dice dei cari estinti. Noi vogliamo ricordarlo così perché il titolo italiano è veramente uno dei peggiori che abbiamo visto negli ultimi tempi, un weekend a bamboccioni. Tra l'altro titolo anche fuorviante rispetto a quello che il film racconta. Prima di sentire su questo il parere di Boris Sollazzo, noi cominciamo con una clip che abbiamo montato proprio di battute dal film. 30 anni fa erano amici per la pelle. Adesso hanno deciso di rincontrarsi e sono tutti diventati adulti. Ehi, come va, Lenny? O no? Beh, io credevo che ti mantenessi in forma. Come sarebbe a dire? Che sei grasso. No! Fanno la conoscenza delle rispettive famiglie. Oh, e questa deve essere tua madre? Mia moglie. Oh, mi dispiace. A me no. Oh, che orrore. Imparano cose sui rispettivi figli. Mamma, vuoi un po' di latte? Vieni qui che te ne do un goccetto. Tuo figlio è proprio un amore. Quanto hai detto che ha? 48 mesi. Cioè 4 anni? Già. E rivivono i loro giorni gloriosi. Che cosa vuoi fare oggi? Scegli. Qual era la cosa che ti piaceva di più quando avevi 12 anni? Quello no, non lo posso fare. E allora questo è un estratto dal trailer di Un weekend a bamboccioni. Ciao Boris, ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea. Buon pomeriggio a te, Franco, e a tutti gli ascoltatori. Allora, ti abbiamo lasciato a San Sebastian l'ultima volta, ha vinto Neds, film di Peter Mullan, lo ricorderete per Magdalen, film che trionfò a Venezia, grande regista, anche grande attore, e grandi film. Non abbiamo il tempo di parlarne adesso, mi chiedo perché questo film non sia andato a Venezia, per esempio, però insomma, ha vinto San Sebastian. Invece nelle nostre sale abbiamo detto, arriva questo Grown Up, ovvero cresciuti, semplicemente, diventati grandi, se vogliamo fare la traduzione letterale, diventato in un infelice titolo italiano Un weekend a bamboccioni. Allora, il film somiglia più al suo titolo o somiglia più all'originale? Somiglia chiaramente più all'originale, è una divertentissima, a mio parere, commedia demenziale, con la finta grossolanità del Fred Peck, quello che fa Capaggio ad Apatow e che vede tra i suoi leader anche Adam Sandler che continua purtroppo ad essere poco compreso in Italia e per sua fortuna molto in America, forse potrebbe avere più successo, perché rispetto ai più raffinati e cerebrali, Fanny People e in qualche modo anche Zoan, che era un Borat bello. Qui si dà una commedia popolare con tutti i suoi amici più cari, Rob Schneider, Kevin James, Chris Rock, e c'è una varia tipologia di maschio con famiglia, dall'imprenditore in crisi all'agente di Hollywood, al casalingo disperato, al figlio dei fiori che ama insomma le donne più anziane di lui, e ci si diverte tantissimo. Perché? Perché la comicità è politicamente scorretta. A un certo punto un cane che ha le corde vocali danneggiate comincia ad abbaiare e uno dei Kevin James dice: sembra Stephen Hawking, e questo mi fa capire quanto può essere politicamente scorretto. E due, perché si gioca molto, si gioca con la recitazione, si gioca con la comicità, ci si diverte molto, e devo dire, anche se forse non apparirò molto professionale, Maria Bello e Salma Hayek vestite da ragazze pompon sarà un'immagine molto difficile da dimenticare. Non sarà molto professionale, ma siamo d'accordo. Comunque, al di là degli scherzi, ecco, appunto, speriamo che non gli faccia male questa traduzione. Ripeto, non è per essere peculiare sulle cose, ma insomma sapete che da anni, da queste frequenze, insomma, cerchiamo di stigmatizzare anche un po' questi adattamenti, perché Un Weekend, il bamboccione, quando era nato come concetto, era quello che non se ne andava di casa. Qui siamo in tutt'altra zona, ed è un titolo che porta lontano anche da questo senso della crescita e anche dell'amicizia, che invece è quella che poi impera nel film. Ma comunque il film è quello, Adam Sandler nelle sale cinematografiche italiane. La rosa purpurea. Dove abito io finiscono tutti al manicomio. Qualcuno ci lavora, qualcun altro ce lo rinchiudono. Io ci venivo da ragazzino, ci venivo con mia nonna che portava le uova alla suora. Vedete, sare, è l'ultimo, puzza ancora del culo della gallina. All'istituto ci sta il cancello dell'istituto. Poi dentro all'istituto ci sta il cancello del padiglione. E poi dentro al padiglione, per entrarci, ci stanno due porte. Questa è la storia di una pecora nera con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea. C'è sempre una pecora nera nelle famiglie, a scuola, al lavoro, e quando non c'è si inventa. Perché è più facile scaricare paure e frustrazioni sui più deboli invece che comprenderli ed entrare in contatto con loro. È più facile tagliar fuori che includere. E chi non ce la fa è perduto. Nicola è uno che non ce la fa, non perché non ce la possa fare, ma perché la società non è pronta a uno come lui. Un bambino un po' fuori posto, ma ricco di una capacità rara, quella della costruzione di storie, dell'affabulazione. Nicola è uno strano e vive con una non famiglia che va da una nonna amorevole, che avete sentito, ma un po' ruvida, a un padre disattento, a due fratelli spregiudicati e crudeli, a una madre che giace in manicomio. Siamo negli anni 70, che sono meno favolosi dei 60, che a loro volta, per qualcuno, sono stati meno favolosi di quel che si creda. Nicola è uno di loro. Mi permette di offrirle un caffè? Quella è Marinella. Lei sì che sembra una santa. Marinella è una specie di Madonna tascabile. Io ho capito che esistono due tipi d'amore. Uno che è l'amore per sempre. Poi c'è l'amore d'un attimo. Quello che inizia e finisce. Io ho capito che il nostro è l'amore d'un attimo. Nicola diventa grande nel manicomio, come la madre che non c'è più. Forse non poteva che vivere lì, un parafulmine umano, il capro espiatorio di ogni nefandezza. I fratelli beccati a portarsi prostitute in casa, è Nicola che ha le visioni perché è matto. In disparte alle feste scolastiche, ma si sa, lui è un po' strano. Forse Nicola è davvero un po' strano, e il manicomio è il suo condominio, la sua via particolare alla santità. Un condominio dal quale esce con le suore a far la spesa e a rincontrare il suo amore d'infanzia, Marinella, che gli vuole bene ma non lo ama. Nemmeno dell'amore di un attimo. Mi ricordo la barzelletta dei due matti che scappano dal manicomio. Il manicomio protetto da 100 cancelli. Saltano il primo, il secondo, il terzo, corrono. Al 99esimo si dicono: vabbè, basta, o siamo stanchi, torniamo indietro. I 100 cancelli servono a proteggere l'istituto. L'istituto serve a proteggere i matti. Ma i matti, a che servono? Esordio azzeccato per Ascanio Celestini, attore, narratore, oratore e ora anche regista, di mano solida e cifra stilistica certa e riconoscibile. Uno dei meriti di questo film è aver portato lo stile Celestini nel cinema senza farlo diventare televisione filmata. Un film coi tempi giusti, i suoi e quelli di Celestini, con le cantilene, i giochi di parole, le frasi concatenate, ma un film vero, dall'inizio alla fine, di rara intensità drammatica. Ascanio Celestini è alla Rosa Purpurea. Ciao Ascanio, grazie di essere qui con noi. Ciao, grazie a voi. Allora, ti volevo chiedere un po' di cose in più su questo tuo lavoro. Innanzitutto, cosa cercavi nel mezzo cinematografico? Certo, le immagini per narrare, ma qual è l'ingrediente del cinema che serviva di più a far lievitare il tuo stile di racconto? cosa, diciamo, il lavoro di gruppo, nel senso che rispetto a, alla scrittura ovviamente e allo spettacolo teatrale, nel cinema nessuno lavora da solo, insomma, tranne che non si faccia un film riprendendosi col telefonino, insomma, dentro casa. E quindi in qualche maniera proprio il lavoro di gruppo, cioè lavorare con la fotografia, ma con un direttore della fotografia, col suono, con un montatore del suono, eccetera. E poi l'evocazione, cioè nel senso che la grandezza del cinema è nel mostrare le cose, ma una grandezza più grande è nel mostrare qualcosa ed evocare qualcos'altro. Insomma, a me interessava soprattutto questo, cioè narrare attraverso l'evocazione. La Pecora Nera, peraltro, era già stato portato a teatro, se non sbaglio, no? Ecco, voglio chiedere perché lo hai tenuto più adatto al tuo esordio cinematografico come regista narrativo, diciamo così, rispetto magari ad altri testi che hai scritto? Ma soprattutto perché La Pecora Nera è il racconto non soltanto di una persona, di un personaggio, ma è proprio il racconto che succede nella sua testa, e quindi in qualche maniera il film è un po' come se raccogliesse, se ascoltasse quello che il personaggio pensa, quello che il personaggio ascolta. Non a caso c'è un sacco di voce off, insomma, e i frammenti che voi avete fatto ascoltare sono, nei frammenti che voi avete fatto ascoltare c'era tanta voce off, ma c'è tantissimo nel film, e quindi in qualche maniera mi piaceva l'idea che lo spettatore potesse entrare dentro la testa del personaggio. Ultimamente, diciamo da qualche anno a questa parte, c'è una ritrovata attenzione del cinema italiano sui temi della follia, insomma dei manicomi. Penso al film di Manfredonia, Si può fare, che la metteva in commedia, ma anche con momenti di grande intensità. Per esempio la fiction su Basaglia, che è stata forse una delle più belle degli ultimi anni in televisione. Ora questo film e non solo. Secondo te perché questa ritrovata passione e forse necessità di raccontare questo aspetto della vita umana? Ma perché è passato, diciamo, abbastanza tempo per poterne riparlare con serenità, insomma, nel senso che la legge 180 del 1978 è stata un po' la conclusione di una lotta politica, civile, che era iniziata almeno 10 anni prima. E quindi forse oggi, a distanza di tanti anni, possiamo riparlarne, diciamo, senza ideologismi. Eppure al supermercato le porte su due, ma si aprono con la cellula fotoelettrica. Il ragazzino, queste porte stavano solo nei film dei marziani. Li prendiamo questi? Mica, ma quella è una sottomarca. Sono 3x2. Due li pagate te e la suora, quello gratis lo pago io. E Dio, c'è sta Dio? Non c'è sta manco Dio. E Buddha, c'è sta Buddha? Ma che Buddha, che Buddha? Non c'è Dio, c'è sta manco Buddha, che ci stanno nei sottomarche? A questi dialoghi con Giorgio Tirabassi è affidata un po' la parte più comica, perché c'è anche una vena, diciamo, umoristica ovviamente in questo film. Ascanio, c'è una cosa molto particolare, se vogliamo, però, che mi ha incuriosito. Hai composto una canzone, una tiritera, una cantilena per questo film, Io che ti ho fatto ti disfo, come ti ho fatto ti disfo, e pensa che vedendo il film, e non sapendolo peraltro, mi veniva in mente Domenico Modugno, cioè mi sembrava una melodia molto vicina al grande Mimmo, invece è roba tua, ecco, come è nata quella canzone? Beh, diciamo, nasce come, sì, è una cantilena, ma nasce come imitazione del canto popolare, in particolare della Ninna Nanna, però nella Ninna Nanna, diciamo, nella nostra tradizione popolare c'è spesso una violenza sottile, perché la persona che si addormenta, la notte, il buio, per le culture orali era un po' una sorta di morte, insomma, si moriva per rinascere il giorno dopo, perché il tempo era ciclico, non lineare, per cui ogni giorno riproduceva il giorno precedente, ogni stagione ricordava la medesima stagione dell'anno precedente, per cui questo andare a dormire era un po' come andare a morire nella tradizione popolare, per cui mi interessava, diciamo, sovrascrivere, riprodurre o forse proprio copiare un'idea di cantilena popolare di Ninna Nanna che raccontasse un po' una sorta di scomparsa dell'individuo. Ascanio, dopo questo esordio, ti capita di pensarti come regista cinematografico? Per esempio, lavoreresti anche su materiali di altri, su testi non tuoi? No, penso di no, nel senso che Questo lavoro è iniziato 8 anni fa con una ricerca, con una serie di interviste che ho fatto in giro nei manicomi, ex manicomi italiani, poi è diventato uno spettacolo, un libro, e in qualche maniera sono arrivato al film perché appunto ci sono arrivato, insomma, non perché è stata un'operazione studiata a tavolino, e l'ho fatto perché ho potuto in qualche modo, in maniera artigianale, tenere insieme tutti i pezzi. Grazie Ascanio Celestini, regista della Pecora Nera nei cinema italiani, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E allora, prima di parlare di un altro film italiano, tra l'altro, in questo fine settimana, cominciamo a giocare insieme con il nostro DVD game, con un Blu-ray game anche questa settimana, tra l'altro l'edizione di un film che in Blu-ray, come dire, guadagna molto. Ecco, e già ho cominciato ad aiutarvi. Tra l'altro un numero di copie superiore alle consuete che possiamo mettere a disposizione, grazie anche a chi ce le ha offerte, ma tutte queste cose le diremo la settimana prossima, se no vi aiutiamo troppo. Cominciamo con la prima clip. Deve dirigere la società. Allora smetta di tentare, lo faccia. Di non le chiedo di tentare che di farlo, mi servono, le chiedo di farlo fisicamente. Lei non ho bisogno fa. Che lo faccia. Io sto tentando Pepper, di farlo. Non mi dà ascolto. No, voglio fare l'amministratore delegato. Una baruffa, fra un uomo e una donna. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato a quale film si riferisca questo dialogo, più tardi ovviamente vi daremo delle altre possibilità. E allora adesso partiamo per il sud, potremmo dire, perché abbiamo ancora qualche istante per parlare di un altro film che arriva nelle nostre sale, si intitola Benvenuti al Sud, è un remake freschissimo, un instant remake, potremmo dire, di un film francese di un paio d'anni fa che era Giù al Nord, dove le cose erano ribaltate, ma il tema era praticamente lo stesso. Protagonista Claudio Bisio, sentiamo subito una clip. Mi raccomando, fa il bravo, obbedisce alla mamma. Papà! Questo è per te. Cos'è? Una trappola per topi, così i topi non ti mangiano i piedi. È protezione 50. Mettitelo soprattutto. Cosa fai? Ma sei matto? Tieni l'orologio al polso? Perché? Come perché? Magari per prenderlo ti... Madonna, è vero. Che stupido. Le preoccupazioni di questa famiglia perché, come che accadeva nel film originale, questo dirigente delle poste che ha cercato di barare sulla sua invalidità per ottenere una posizione che gli si confaceva, invece è stato beccato e viene mandato giù al sud, in campagna, nella profonda campagna. Avete sentito la preoccupazione di questa famiglia brianzola che ha un po' di così, diciamo, forse di, anche un po' di pregiudizi e che sono alla base poi del divertimento del film. Richiamiamo in causa Boris Sollazzo. Boris, allora, un instant remake, come ho detto, il film lo conosciamo, l'originale, cosa aggiunge, cosa cambia, è azzeccato, è riuscito questo remake con Claudio Bisio? Uno dei produttori tossi della Catlay ha detto che il film sembrava scritto per gli italiani, ed è vero, il campanilismo esasperato fino a diventare violento è molto più italiano che francese. E quindi in questo senso è migliore dell'originale. Il fatto è che a mio parere l'originale era abbastanza scarso, era forzato, non era particolarmente buono. In questo caso Miniero, che non può che raccogliere le mie simpatie essendo uno sfegatato tifoso partenopeo e facendo tenere a Nando Paone per metà del film la maglia di Lavezzi, riesce a fare meglio dell'originale, richiamandosi non tanto all'originale quanto, secondo me, alla tradizione dei Totò Peppino e la Malafemmina, di un cinema comico del dopoguerra che giocava sulle differenze regionali. Quello che a mio parere sbaglia però è il non essere capace di giocare con l'immaginario attuale, cioè si richiama al passato. Quando lo fa con un'imitazione di Gomorra diventa divertentissimo e politicamente scorretto. Ecco, se avesse preso questa scelta per tutto il resto del film sarebbe stato davvero un bel film. Così è una sufficienza stiracchiata. È comunque un film che ci aspettiamo di trovare dalle parti alte della classifica, sicuramente nel prossimo fine settimana. Allora, grazie a Boris Sollazzo che ci ha così raccontato un po', aiutato a gestire un paio di film in questo ricco weekend di uscite. Alla prossima settimana. Arrivederci a tutti. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, la terza parte del nostro programma apre una parentesi sugli Oscar. Oscar che sono ben di là da venire, ricordiamo a fine gennaio le nomination, a fine febbraio l'assegnazione delle statuette, ma questa è stata la settimana nella quale si sono cominciate a tirare un po' le somme per quanto riguarda i film che ogni nazione, diciamo così, sceglie per essere rappresentata alla corsa per le nomination, soprattutto per quanto riguarda la corsa alla statuetta per il film straniero. Anche l'Italia, come saprete senz'altro, ha scelto il suo film, che è La prima cosa bella di Paolo Virzì, che è stato scelto, diciamo così, ha battuto la concorrenza di una serie di film che sono arrivati un po' lì fino all'ultimo momento. Fra gli altri c'era il film di Giorgio Diritti, che tra l'altro sta avendo un ottimo successo a livello internazionale, L'uomo che verrà, c'era il film di cui abbiamo anche parlato diffusamente qui alla Rosa Purpurea di Luca Guadagnino, Io sono l'amore. Insomma, si sono fatte, c'era il film di Ospetek, si sono fatte delle nomination interne, diciamo così. Alla fine è stato scelto La prima cosa bella di Paolo Virzì, che quindi rappresenterà l'Italia alla corsa agli Oscar. Ovviamente prima bisogna che prenda la nomination, entri in cinquina prima di poter poi concorrere veramente alla Notte delle Stelle. Però nel frattempo Paolo Virzì ha cominciato la sua campagna, trasferendosi in America momentaneamente per andare a promuovere il film per i Golden Globe prima e per gli Oscar dopo. Noi abbiamo voluto così omaggiare questa scelta, questa iniziale scelta italiana. Vi facciamo ascoltare una clip del film. Oh dai, un minutino, quanto sei palloso. Ma non corre, cosa corre? Si va a vedere. C'è anche lo zucchero filato. Vai piano. Me lo dà uno zucchero? Mamma, c'è una fila, scusi. Mi è sempre gabbato tanto a me lo zucchero filato. Sei sicuro che lo può mangiare? Mangiano anche bimbi piccini. Sai, tu mozzino? A me mi ha sempre fatto schifo. Mamma, si va via, eh? Si parla un pochino io e te? Non sei matta. No, è una. Dai su, muoviti un pochino, è bello, dai. Allora, vieni qui, muovi un pochino questi piedi, dai. Stefania Sandrelli e Valerio Mastrandrea nella prima cosa bella, in uno dei momenti più belli, coinvolgenti e anche commoventi del film. Tra l'altro ci sono altri paesi, tanto per citarne alcuni, che hanno dato il loro verdetto. La Serbia sarà rappresentata da Beza di Srdjan Karanovic. Per quanto riguarda invece la Danimarca, Susan Bier con il suo In a Better World sarà la rappresentante del paese nordico. Il Brasile ha scelto il film Lula, figlio del Brasile, e invece Israele ha scelto il film Il responsabile delle risorse umane, tratto dal libro di Joshua. Insomma, cominciano ad arrivare le nomination nazionali. Altro tema, altro omaggio potremmo dire di questa settimana, perché se ne sono andati tre grandi personaggi del cinema. È stata una settimana, insomma, difficile sotto questo profilo, il profilo degli addii, anche se questo ovviamente non lenisce il dispiacere, ma insomma le età erano piuttosto ragguardevoli, perché è morta prima di tutte Gloria Stewart, 100 anni, pensate, attrice della Hollywood dell'epoca d'oro tra il 32 e il 46, girò, pensate, 46 film recitando al fianco di gente come Boris Karloff, James Cagney, Shirley Temple. Era considerata una delle donne più belle di Hollywood, ma tutti la ricordiamo come la vecchietta di Titanic, per intenderci, l'attrice che dava il volto all'anziana superstite nel naufragio, che poi racconta in flashback la storia del Titanic. Poi è toccato ad Arthur Penn, grande regista, il regista che forse più di tutti alla fine degli anni 60, inizio anni 70, ha innovato il cinema americano. Qualcuno ha detto: senza Arthur Penn un film come Taxi Driver di Scorsese non ci sarebbe stato. Ebbene, con Bonnie and Clyde davvero Arthur Penn aveva cambiato, con quel mix di ironia, sesso e violenza, il modo del cinema americano di rapportarsi al pubblico rispetto alla classicità degli anni 60. E poi, come non ricordare un film come Piccolo grande uomo. E l'ultimo è stato Tony Curtis, il re della commedia, uno degli attori più brillanti e divertenti che abbiamo amato in film come Operazione Sottoveste, come A qualcuno piace caldo, indimenticabile, al fianco di Marilyn Monroe, e nella serie Attenti a quei due, che per chi è della mia generazione, insomma, è una serie davvero di culto. Tre scomparse 3AD a questo mondo da parte di stelle che possiamo sempre rivedere grazie al DVD e insomma grazie all'home video, e quindi immagino anche una corsa di curiosità per rivedere i film di questi grandi registi e attori. A proposito di DVD, noi andiamo alla seconda parte, la seconda traccia del film misterioso di oggi, ascoltiamola insieme. Potrai lavorare in pace assoluta, deve essere divertente essere morto, no? Niente pressioni. Oh, eccoli qui, che adrenalina, pronti per combattere. Forse ci sono errori di calcolo, ero impaziente di vedere i prototipi, fammi causa. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, più tardi, l'ultima possibilità. Le suggestioni di questa musica ovviamente ci portano a un'epoca del cinema molto molto lontana, l'epoca del cinema muto, perché vogliamo parlare adesso delle giornate del cinema muto che sono in svolgimento a Pordenone, come ogni anno all'inizio di ottobre. Il mondo degli studiosi, dei ricercatori, dei collezionisti, degli appassionati del cinema in generale, del cinema delle origini in particolare, si trovano a Pordenone, uno degli eventi più importanti del mondo, e so di non esagerare dicendo, per quanto riguarda questo tipo di cinema. Un evento che si è aperto con The Navigator di Buster Keaton, all'insegna di Buster Keaton, ma anche all'insegna di un film di John Ford. Insomma, c'è davvero il grande cinema con la C maiuscola da vedere, rivedere, riscoprire o forse scoprire anche per la prima volta. Noi siamo in collegamento con Carlo Montanaro, che saluto. Salve Carlo! Salve a tutti, buona giornata. Allora, dicevo, uno dei più importanti e principali appuntamenti del mondo per quanto riguarda questo settore. Come vi siete guadagnati questi galloni? Ma diciamo che ci siamo guadagnati questi galloni cominciando a pensare seriamente a questa parte del cinema che, malgrado allora non esistessero cassette, DVD o quant'altro, passava quasi esclusivamente in televisione e male, o in qualche cineclub e male. Ovvero, mi spiego, si parla di cinema muto, si parla di bianco e nero, in realtà il cinema non è mai stato muto e non è mai stato in bianco e nero, nel senso che c'erano la musica dal vero, c'erano sistemi più o meno chimici o meccanici per dare delle dominanti, se non addirittura proprio dei colori che in qualche modo assomigliavano anche a quello che poi sarà la chimica che permetterà di rivelare compiutamente i colori del mondo. Quindi tutte situazioni che si erano andate perdendo, con in più un'altra cosa che fa parte un po' della generazione dei più vecchietti, cioè queste cose che corse infinite, che per i comici erano anche sorridere di più, ma anche per i film drammatici, cioè la velocità di ripresa e proiezione ai tempi del muto era più lenta e le attrezzature allora a disposizione permettevano una sola velocità più veloce, appunto, dovuta al cinema sonoro. Pochi accorgimenti tecnici hanno aperto gli occhi a un sacco di gente che non capiva come i nostri nonni potevano appassionarsi a quello che si vedeva fino a quel momento, e lì modestamente è cominciato tutto. Parliamo dell'edizione di quest'anno. Abbiamo detto apertura con The Navigator di Buster Keaton, chicca con Upstream di John Ford, un film straordinario del grande regista, poi conosciuto per l'epopea dei western, del western classico, ma so che c'è un'altra cosa a cui tenete molto, un film di Murnau, di uno dei maestri del cinema delle origini, che è stato ritrovato tra l'altro in situazioni abbastanza comiche, se vogliamo, abbastanza così, insomma, particolari. Diciamo che è un deposito di un appassionato, Giuseppe Antieri, che aveva creato anche un piccolo museo, eccetera, e che con pazienza aveva messo via un sacco di materiali, però diciamo in maniera un po' egoistica, come il cinetecario di una volta, preferiva conservarli piuttosto che rivelarli. La sua attuale situazione di età e quant'altro ha fatto in modo che le sue cose venissero depositate alla Cineteca Nazionale, dove è saltato subito all'occhio, in realtà non è tutto il film, ma il primo rullo di Maritza, che è una commedia, una delle prime commedie che ha fatto appunto Murnau dopo il momento diciamo più o meno espressionista. Cioè lui ha lavorato molto Murnau da una parte e dall'altra, però ci sono anche delle cose legate non alla commedia comica ovviamente, ma a un modo di raccontare che assomiglia non solo al dramma, ma anche a delle situazioni più gradevoli sul piano della narrazione, insomma. E allora ricordiamo l'appuntamento con le giornate del cinema muto a Pordenone fino al 10 di ottobre, ce n'è davvero per tutti i gusti, è cinema delle origini, è cinema di grandissima capacità spettacolare, semplicemente non ha la parola ma spesso ha la musica, e quindi come dire, allontanatevi dall'idea che sia un cinema più noioso o più difficile, è assolutamente godibile come tutto il cinema. Grazie a Carlo Montanaro. Buon lavoro a voi e buona giornata a tutti. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, il finale del nostro programma come sempre dedicato ai film da vedere a casa propria e il grande cinema da recuperare anche in televisione. Lo facciamo come sempre con gli amici del settimanale Film TV. Oggi abbiamo fatto un paio di scelte molto diverse tra di loro, ma anche molto molto interessanti, cominciando da un film che è davvero un grande classico di un maestro, di un classico dell'ironia, ma anche un classico di un maestro come Stanley Kubrick. Sara Sagrati. Ciao Franco, ben ritrovati con le segnalazioni della settimana di Film TV. E come primo film andiamo proprio sul classico, su Iris alle 21 domenica 3 ottobre, il grande Stanley Kubrick con Il dottor Strano Amore, ovvero Come imparai a non preoccuparmi ad amare la bomba. Un film grottesco, divertente, un manifesto antimilitarista e sicuramente anche la rappresentazione del pessimismo cosmico di Kubrick, virata però sulla risata e su una grande performance di attore di Peter Sellers in tre ruoli diversi. Un classico da vedere, da rivedere e da godersi ancora una volta. Davvero, non è mai troppo. Strano Amore, domenica 3 ottobre su Iris, digitale terrestre, gratuito alle ore 21. La seconda proposta, invece, Sara, torna alle origini del cinema dei fratelli Coen. Certo Franco, hai perfettamente ragione, infatti il film di cui parliamo è Crocevia della Morte, andrà in onda lunedì 4 ottobre a mezzanotte e 5 sulla 7 ed è un vero distillato dei gangster movie di una volta, riproposti però nel 1990 dai grandi fratelli Coen, da Joel e Ethan. Grande cast, gli stilemi del genere ben rifrullati e riproposti, un film poco noto del duo e quindi assolutamente da non perdere. E questo invece è l'appuntamento lunedì 4 ottobre sulla 7 alle 24.05 a mezzanotte e 5 per Crocevia della Morte. Grazie Sara. Ciao Franco, a risentirci la prossima settimana. A questo punto invece i film tornano ad essere in DVD, ma cominciamo con la terza traccia, l'attesissima terza traccia del nostro Blu-ray Game di questa settimana. Se non avete ancora indovinato, ascoltate. Sono stato riassegnato. Oh. Il direttore Fury mi vuole nel New Mexico. Fantastico. Terra d'incanto. È quello che mi dicono. Roba segreta. Qualcosa del genere. Buona fortuna. Addio. Grazie. Ci è utile. Sì. Più di quanto creda. Non così tanto. Di che film si tratta? La Rosa Purpurea, @radio24.it. Come sempre inserite anche il vostro indirizzo di posta privata per accelerare le eventuali pratiche in caso siate i fortunati vincitori del Blu-ray proprio di questo film. Una settimana fa avevamo giocato con una saga, l'avevamo detto, avevamo seminato film, tracce estratte da diversi film di questa saga. Ascoltiamone una. Nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. Sylvester Stallone, Rocky, questa era estratta dall'ultimo capitolo, Rocky Balboa, proprio di un paio d'anni fa, film molto toccante, molto, molto riuscito, molto sincero di cuore da parte di Sylvester Stallone, ma quello che era in palio era tutta la saga, perché adesso sentiremo anche da Claudio Poffi, la saga torna in Blu-ray e hanno vinto in molti, perché noi abbiamo voluto prendere i singoli, anche perché escono in singolo, non in cofanetto, i singoli Blu-ray dei sei capitoli della saga di Rocky e regalarne uno per uno, così accontentiamo un numero più ampio di ascoltatori. Da Marcello Tagliabue, provincia di Milano, ad Antonello Sammito di Roma, da Vittorio Zirnstein, sempre di Milano, poi si va a Napoli con Domenico Di Matteo, a Treviso con Luca Tolomelli, insomma sono tanti e riceveranno il Blu-ray a casa. Parliamo di questa operazione, Claudio Poffi, Rocky torna, ma torna non con un cofanetto da, come dire, acquistare tutto insieme, si possono anche scegliere i singoli film. Sì, ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Assolutamente, l'edizione di Fox per quest'anno dei vari film di Rocky la scelta è stata quella della vendita separata, il cofanetto in vendita dall'anno scorso. Diciamo che la qualità video della saga Blu-ray di Rocky Balboa è direttamente proporzionale agli anni che i film portano sulle spalle, con una certa grana per il cult del 76 di Avildsen, e migliorando con le produzioni successive. Simile per Resa l'audio italiano, offerto sempre in DTS, quindi qualità insomma piuttosto buona, ma solo la traccia inglese beneficia dell'alta risoluzione. Ricordo che gli extra non sono tantissimi, più che altro su Rocky Balboa, sul sesto. Per recuperare documentari e supplementi occorre acquistare il cofanetto della saga, che ha questo settimo disco zeppo di extra. E allora quello lo aspettiamo, e soprattutto magari lo recensiremo più in là. Un altro capolavoro, ovviamente di segno totalmente opposto, il bello del cinema è che è come essere in un grande supermercato, si fa un po' ovunque. Un altro capolavoro della storia del cinema, Psycho, niente da dire, Hitchcock, Blu-ray, edizione molto bella, sentiamo la clip. Volete dirmi che diavolo c'è? È alla svelta? Comincia a perdere la pazienza. Oh, via, calma, amico, non arrabbiatevi. C'è solo che la vostra amichetta ha rubato $40,000. Ma che cosa racconta? Che storia è questa? Doveva depositarli alla banca venerdì mattina e non l'ha fatto. E da allora nessuno l'ha più vista. Qualcuno deve pure averla vista. Una ragazza con $40,000 va sempre da qualcuno. Una veniente impiegata sogna una vita migliore, ruba del denaro al suo principale e fugge, lasciandosi alle spalle l'amante e la sorella. Cadrà vittima di Norman Bates, gestore di un motel fuori mano, serial killer in erba, soggetto a frequenti turbe psichiche e sdoppiamento della personalità. Criticato e non pienamente considerato all'epoca, il film del 1960 di Alfred Hitchcock, che è entrato di diritto nell'Olimpo dei film di culto del maestro del brivido, spesso annoverato nella rosa dei 10 migliori di tutti i tempi. L'edizione Universal in alta definizione è di qualità interessante e comunque superiore al DVD. Ci sono alcuni momenti in cui la grana della pellicola si fa sentire. Per l'audio ci sono le due tracce Dolby Digital monofoniche italiano-inglese dell'epoca, ma c'è addirittura una fresca codifica DTS multicanale ad alta risoluzione per l'inglese. L'edizione è per il 50° anniversario, tantissimi extra con un notevole making off e soprattutto una approfondita analisi dell'opera, tra cui lo storyboard della famosa scena della doccia. E allora cinema più recente, un maestro del noir che tra l'altro sta, e lo diciamo con grande con grande gioia, ricominciando a fare cinema, a fare film, Roman Polanski, il suo ultimo lavoro, L'uomo nell'ombra. Alla stampa che diciamo? Rilascia un comunicato interlocutorio, che sia corto. Ah, ora ci vorrebbe Mike. Se vuoi ci provo io. Che ci provi lui? Dovrebbe essere uno scrittore, va bene? Aspettate un momento. Devo sembrare sicuro di me. Non sulla difensiva. Sarebbe fatale. Nemmeno arrogante. Niente amarezza, niente collera. Non dica che mi rende felice avere l'opportunità di tutelare il mio buon nome o fregnacce del genere. Quindi non è sulla difensiva, ma non è arrogante. Non è in collera, ma neanche felice. Esatto. In che stato d'animo è allora? Ex primo ministro britannico Adam Lang vive relegato su un'isola negli Stati Uniti con la moglie, la segretaria amante e le guardie del corpo. Lo raggiunge un ghostwriter, scrittore incaricato di revisionare il testo della sua biografia, che rimarrà mortalmente invischiato nel passato sporco e pericoloso del politico. Polanski gira un thriller avvincente dalle atmosfere sospese e rarefatte, da 01 Distribution, edizione DVD, ma soprattutto Blu-ray di eccellente qualità, un risultato tecnico di eccellenza sia per video che audio, l'audio addirittura in DTS ad alta risoluzione. In italiano e in inglese. Tra gli extra segnalo un approfondimento sull'omonimo romanzo in compagnia del creatore della storia, c'è lo scrittore appunto Robert Harris, ma soprattutto l'intenso incontro con il regista che ripercorre le motivazioni che lo spinsero a realizzare l'opera. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. A presto, un saluto. E allora con questo noi chiudiamo come sempre il nostro programma, ci risentiamo sabato prossimo alle 18, chi ci ascolta la domenica alle 15, un saluto da Franco D'Assisti.